24. La storia. Amici, questo è Portobello, uno dei più famosi mercati inglesi. Uno può trovare a Portobello di tutto e può cercare di tutto, può offrire, può domandare, e gli oggetti più strani si accatastano a Portobello. Anche l'Italia ha la sua Porta Portese, a Roma o Parigi il suo mercato delle pulci. Dunque, senso della nostra trasmissione del venerdì sera, che si chiamerà Portobello, è esattamente questo: mettere il pubblico in condizione di cercare o di trovare le cose più rare, più strane, più difficili. C'è chi cerca un marito, c'è chi cerca una moglie, c'è chi cerca un pappagallo, c'è chi cerca una bombetta. Bene, Portobello tenterà proprio di mettere in comunicazione questi nostri amici che seguiranno ogni venerdì sera appunto a Portobello. Io vi consiglio di iscrivervi a Portobello, RAI, Corso Sempione 27, Milano, segnalando i vostri casi. Thank you very much. Quello che avete sentito è uno spot inedito, mai andato in onda, con cui nel 1977 la RAI annunciava Portobello, trasmissione che ha fatto epoca, un trionfo clamoroso, fino a 27 milioni di spettatori, ma soprattutto un programma da cui negli anni sarebbero nate tante, tantissime trasmissioni di successo, da Carramba che sorpresa ai Cervelloni, da Strano amore a Chi l'ha visto. Quello che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di un programma che ha fatto epoca, ma è anche la storia di un modo diverso di fare televisione. Tutto ha inizio sulla seconda rete della RAI alle 20.50 di venerdì 27 maggio del 77. Signore e signori, buonasera. Dalla Fiera 2 di Milano va ora in onda Portobello. Conduce Enzo Tortora, ospite straordinario. Portobello! La televisione chi la guardava? Eppure Portobello, sì. Era il ricordo di Fiorello, ma se Portobello è la madre di tanti programmi, il padre è uno solo, si chiama Enzo Tortora. Un giornalista colto, raffinato, un personaggio popolarissimo, molto amato, nato e cresciuto dentro la RAI. Classe 1928, di famiglia borghese, Tortora entra nel mondo dello spettacolo sul finire degli anni 40. Da studente universitario in legge, esibendosi nella compagnia goliardica di Genova, Baistrocchi. Nel 1951 si trasferisce a Roma, partecipa ad un concorso RAI e lo vince. Entra a far parte delle radiosquadre. Nel 1956 debutta in televisione, affianca come valletto con lo smoking verde Silvana Pampanini, in Primo applauso. Nel 1957 spopola con Telematch, facendo scervellare gli italiani intorno ad un oggetto misterioso. Un cannocchiale. Acqua, acqua, non ci siamo ancora. Cannone. Boom, nemmeno. Questo è veramente il cuore della telecamera. Questo si chiama Image Ortica. Direi che è l'essenziale, il punto fondamentale, quello che per la radio è il microfono. Senza questo coso non avrebbero avuto luogo 10 anni di televisione italiana. Beh, poco male direte voi, ma siete cattivi, perché pensateci, senza di lui non avremmo avuto il professor Cutolo, Angelo Lombardi, Rachel City, Itinerario Quiz, Teletris, non avremmo avuto Enzo Tortora, avremmo perso tutto, tutto, anche questo. Ma è con Campanile Sera di Mike Buongiorno del 1959 che si rivela come conduttore, curando i collegamenti con i paesi dell'Italia settentrionale. Sempre impeccabile e cortese, in pochi anni il giovane ligure entra di prepotenza nella schiera degli astri vincenti della TV italiana. Offro il sistema per risparmiare in bagno. Cerco antichi ferri per testoline contemporanee. Offriamo campana vecchia per campana nuova. Dalla RAI viene estromesso la prima volta nel 1966. Condannato dai dirigenti perché include in una trasmissione un'imitazione di Amintore Fanfani fatta da Noschese. La interrompo, ma la pregherei di voler far chiudere la porta. In qualità di segretario della Democrazia Cristiana sono particolarmente sensibile alle correnti. Perché? Poi il ritorno con il Gambero e la Domenica Sportiva, trasmissione che prima di lui era un semplice notiziario per tifosi e che sotto la sua guida si trasforma in spettacolo con servizi, interviste dal vivo, collegamenti a sorpresa. Una volta non ci porti pure me, chissà, chissà. Nel settembre del 1969 la seconda clamorosa rottura con la Rai. In un'intervista al settimanale Oggi, Tortora pronuncia giudizi sferzanti contro l'ente di Stato e il monopolio televisivo. Disoccupato, torna a Milano e fonda Telealto Milanese e Antenna 3, le prime televisioni private italiane. Nel 1977, dopo 8 anni di esilio, lo richiamano a Viale Mazzini. L'occasione del grande riscatto arriva con Portobello. Ma ritornerò perché? Con Portobello Enzo Tortora torna tra i grandi della televisione. Accanto a lui la sorella Anna, Angelo Citterio, che firmano con lui la trasmissione. E poi Gigliola Barbieri, la sua assistente per quasi 30 anni. René Longarini, mitica responsabile del centralone del programma. Il jazzista Lino Patruno e naturalmente lui, il pappagallo. Portobello. Tu hai l'apparecchio radio sulla tua automobile? Sì, come no, 2. Bene. 30 secondi, faccia dire Portobello a Portobello, prego. Portobello. Bello? Porto? Me lo sta affascinando, Porto? Ma... Allora, il pappagallo in realtà parlava, perché non è che fosse muto, però parlava di giorno. Tant'è vero che siamo andati dal pappagallaio qualche volta e parlava, solo che quando arrivava la sera lì non parlava perché era stanco, perché i pappagalli di sera hanno sonno e dormono. Se non dici Portobello ti faccio un occhio nero, eh? Ah, me lo dici? Ho capito, allora Portobello, Portobello, ma va, ti prego, dimmelo. Portobello! Coraggio, che vengono... Ma sei un uccellaccio cattivone brutto, eh? Sei bella tu. Su Mix 24 con la storia di un programma che ha fatto epoca, Portobello. Continuiamo subito dopo la viabilità. Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di una trasmissione indimenticabile, Portobello, e del suo conduttore Enzo Tortora. Se quello del pappagallo di Portobello diventa un tormentone che appassiona milioni di spettatori, il cuore del programma in realtà è in 3 rubriche di enorme successo, a cominciare da Fiori d'Arancio. E dove sei? Mi dica come si chiama lei? Graziani Gastone. Io. No, solo Gastone mi serve, Gastone. Sì, ma sei vedovo? Come? Sei vedovo o sei scapolo? No. Io no, sono scapolo, ho un ristorante. Ho capito. Amore, sono emozionato perché mi sento la testa. Ah, figurati io che sto qua, non sono emozionato. Perché ti emozioni? Non ti vede nessuno? Fiori d'Arancio. È il momento della pagina profumata, quella dei fiori d'arancio. C'è 4-5 lettere mi hanno molto colpito, no? E oltre che la lettera, alcune hanno mandato la foto e dico la verità che sono molto carine, no? La mia paura è che quando vedranno me magari cambino idea. No, Benito, però... l'hanno già vista e l'hanno trovata simpaticissimo. Tante volte da casa c'era magari uno bruttino che cercava moglie e mia madre diceva che questo non lo trovo a nessuno, guarda che brutto. Eppure riuscivano a trovare moglie e mariti, però a quei tempi non è come la televisione di oggi. Quelli che si incontravano lì a Portobello duravano. Cosa ha cominciato? Con una letterina? Sì, infatti. Da cosa nasce cosa? Certamente. Ecco, vi siete sposati quando? A febbraio dell'85. Quindi il 24 di febbraio dell'85. Sono date a non si dimenticano, sì. Ancora ci abbiamo mezza luna di miele. Dicen che la distanza è solo un olvido. La tabaccaia di 65 anni napoletana fu una telefonata che arrivò e credo che prese direttamente Tortora in redazione, perché lei, secondo me, vessata da nuore un po' bigotte, decise di fare questo colpo di vita e non solo non voleva un marito, perché è logico, è meglio invecchiare in due, ma voleva un marito spagnolo che ballasse il flamenco e che fosse molto focoso. E Donna Antonietta che fa? Beh, adesso il negozio ci ho messo 2 assistenti, sì. Ho nominato 2 assistenti e io mi sto un po' arrivosata. Tirando dopo il fiato. Esatto. E vediamo allora di tracciare l'identikit di questo cavaliere. Donna Antonietta, di dove dovrebbe essere? Non so, di Napoli? Beh, puoi rimanere allo stesso posto, Napoli. Dice, cambiare per cambiare, tanto, tanto vale cambiare. Quindi, c'ha una preferenza per qualche regione, signora Antonietta? Beh, guarda, signor dottore, io una preferenza vera e propria. Comunque, pensavo sempre che una persona di origine spagnola mi avrebbe molto piaciuto, ma che se... Di origine spagnola? Spagnolo, sì. E di grado, una... Enzo l'ha presentato con una grazia, una simpatia, un'allusione, c'era sempre ironia nelle sue cose. Luca Ballero proprio. Dove sei? Vi ricordate la rubrica Dove sei? E passiamo all'ultimo capitolo, quello appunto del Dove sei. E lì c'è un chi l'ha visto, un Carramba che sorprese, perché poi mi ricordo che si incontravano e lì le persone che non si vedevano da anni poi le trovavano ed Enzo Tortora li faceva incontrare, un tripudio, una meraviglia. Secondo me era il suo momento preferito della trasmissione. E io mi ricordo di una famiglia sarda, era un pezzo molto intenso, la lettera della bambina a Enzo per rivedere il papà che era in Iran, non vedeva da tanto tempo. E beh, è stato il Carramba di molti anni dopo. Dunque, ho 7 anni, frequento la seconda elementare, come vanno le scuole? Bene? Sì. Ogni venerdì guardo la tua trasmissione, grazie Davide. Dunque, a me piace molto perché, vabbè, tanti complimenti. Io con la mamma e la sorellina siamo quasi sempre soli, perché il papà è sempre lontano per ragioni di lavoro. Adesso si trova in Iran, a Khorasan. Khorasan, è giusto? Sì. Ai confini dell'Unione Sovietica. Per Natale lo vorrei vicino a noi, ma papà non può, un po' come tanti italiani. Bene, questa sera Portobello vuole offrire una favola vera di Natale. Io debbo ringraziare non soltanto la RAI, ma anche l'Italia che ha consentito un miracolo. Signora Davide, papà dai confini dell'Unione Sovietica ha fatto un volo ed è qui, eccolo qui! Eccolo qui, eccolo qui! Buon Natale a tutti! Buon Natale! Un altro modo di fare televisione di Enzo Tortora e un po' della nostra generazione, adesso si è perso sicuramente, era quello di i cosiddetti casi umani, non usarli soltanto davanti alla telecamera, ma seguirli dopo per capire come andavano avanti veramente le cose. Insomma. Anche dopo la trasmissione ci siamo tenuti in contatto e così c'è stata una raccolta di fondi molto importante, così abbiamo potuto comprargli l'appartamento e lasciargli un po' di soldi anche alla nonna. C'è un'altra rubrica di Portobello che ha fatto scuola, quella sugli inventori. A parlarcene le collaboratrici di Tortora, Gigliola Barbieri e Paola Ferrari. Ultimamente in televisione gli inventori non hanno molto successo, ma gli inventori che venivano a Portobello avevano un successo strepitoso. Quindi io la prego immediatamente di far vedere, dopo un minuto e mezzo che è entrato in azione, il suo timer, perché è un letto a timer, è un letto diciamo proprio così, a segnatempo, che cosa accade? Lo faccia eccezionalmente così. Per noi, per abbreviarlo. Attenzione, signore e signori, accade questo. L'Italia si è testa! Cosa più importante, il dentifricio. Viviamo in tempi in cui ci invitano a risparmiare. Ecco, quindi questo magari farà poco piacere ai produttori di pasta dentifricia, ma il tubetto, ecco, questo è il punto dell'invenzione, viene collocato come di dentifricio, signor Stellato? Si toglie il coperchio. Ecco. E attenzione, vedete? Come se fosse una mucca, si munge. Ecco. Piano, e se ne esce proprio il dentifricio giusto. Ecco, bravo! Oh! Ma ci sono state tante invenzioni, per esempio come questa dello spremi dentifricio, che erano utili per la casa. E gli italiani prendevano anche spunto, no? Perché poi lo vedevano in 20 milioni, perché questi erano i nostri ascolti, poi il giorno dopo ti chiedevano per la strada, ma come si può fare, allora dacci un consiglio. Buonasera, ti chiami? Gianluca Pezzi. Età? 10 anni. Quando avevo 10 anni, nel 1982, ho mandato una letterina a Portobello. In quel periodo avevo un problema che mi assillava particolarmente perché essendo piccolo non riuscivo ad arrivare allo spioncino della porta per vedere chi mi stava bussando, chi stava suonando. Questo mi causava parecchi disagi perché dovevo prendere la sedia che c'era in cucina e trascinarla fino alla porta. Ho inventato una specie di sgabello che applicato alla porta, uno lo tira giù e è come se fosse una sedia. Sale, ecco, è collegato alla porta. Vediamo l'invenzione allora di questo nostro giovane, devo dire, molto in gamba, perché... Ah, dunque, allora, sei pronto? Sì. Eh? Sì. Allora, possiamo vedere che cosa succede? Salgo sul predellino, conto fino a 5, dico, chi è? Chi è? Pippo Baudo. No, te sei il lupo. Ah, l'hai visto? La voglia magari di fare, di creare cose nuove mi è un po' rimasta perché... nel corso poi della vita mi sono laureato in architettura e sono anch'io uno dei tanti architetti che lavorano in Italia. Non sono mai riuscita, e mi dispiace molto, a conoscere la moglie di quello che inventò il letto, che se litigava con la moglie si alzava una parete, cioè il sogno, penso, di metà degli italiani, anche delle mogli, devo dire, può essere il sogno. Ah. E cosa fai? Leggi il giornale a letto, con tutte quelle brutte notizie, figurati che notte passi. E non fai dormire neanche me perché ti metti a russare, ti agiti. E pensi un pochino più di riguardo a metterci sempre i calzoni come li metti così, che poi al mattino sono io che li devo stirare. Perché la donna di servizio non si può più dire niente, è diventato sofistico ormai. E tu non è che ti degni di dirle qualche cosa, no, per carità. Tocca tutto a me se non ci fossi io in questa casa. Se non ci fossi io si andrebbe veramente a bagno. Sì, sì, sì, sì. Predica Berto che predichi al deserto. Io ho visto fare molte trasmissioni televisive e alcune, tra cui una che ho fatto, che si chiamava I Cervelloni, nasceva da una delle costole di Portobello. Le telefonate che arrivavano nelle loro cabine fossero centinaia e centinaia, poi noi avevamo il giorno dopo i centralini quasi sempre bloccati dal numero di telefonate che arrivavano. Pronto Portobello, era quello che noi dicevamo. Dottora amava circondarsi di donne. Sì, noi siamo pronte, come al solito, anche un po' emozionate perché abbiamo saputo che la volta scorsa hanno assistito a Portobello ben 24 milioni di persone. Io ho lavorato al Centralone di Portobello, la prima e la seconda edizione del programma. Ecco Paola, Silvia, Antinisca, Marina e Anna. Le centraliniste di Portobello erano molto importanti per lui, si curava molto di loro, perché loro erano comunque il primo contatto che i telespettatori avevano con Portobello. Direi un successo strepitoso. Antinisca. Ah sì, tantissime telefonate, il centralino ha rischiato di saltare. Paola. La signorina ha ricevuto moltissime telefonate, non solo in trasmissione ma anche durante la settimana, un vero successo insomma. Gli rispondeva Tortora personalmente, rispondevano le telefoniste. Se c'era un desiderio veniva accolto. Tortora, sì? Sì? Credo che stia arrivando l'enciclopedia per la bambina di Buia. Ah, la bambina di Buia, coraggio allora Manuela, avanti, c'è un telefono che squilla, pronto? Buonasera signor Tortora, è Leonardo Mondadori. Leonardo Mondadori, l'editore? Mondadori. L'editore? Sì. Ah, magnifico, pensa, è l'editore Mondadori. Su Mix 24 con la storia di Portobello di Enzo Tortora continuiamo subito dopo la pubblicità. Bentornati a Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia di uno dei programmi storici e di grande successo della Rai degli anni 80, Portobello. Politici, personaggi del mondo dello spettacolo, dell'economia, della cultura, in quelle 6 stagioni tutta l'Italia voleva partecipare a Portobello. Eppure i critici hanno gioco facile, Portobello cerca la lacrima facile, Tortora sembra uscito dal libro cuore con le sue leziosità e il suo garbo di un tempo antico. Ma era davvero così Tortora a raccontarcelo? Amici, collaboratori, quelli che lo hanno conosciuto per davvero, Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Renzo Arbore, Maurizio Costanzo. Ebbi modo poi di conoscerlo bene quando siamo andati a fare gli ospiti da Mina. Buonasera e grazie di essere venuti. Ah, grazie a te. Grazie a te. Immagino vi conosciate tutti, no? Beh, veramente non ho il piacere. Neanche io. Penso siano tuoi conoscenti, suppongo. Sì, nemmeno io conosco i signori. Beh, allora, scusate, Pippo Baudo, ma buongiorno. Molto lieto. Corrado, lieto. Piacere. Signor Corrado. Un piacere. Piacere. Molto lieto. Molto piacere mio. piacere. Scusate. Prego, prego. Ci siamo schierati. A un certo momento Enzo è venuto da me e mi ha detto: senti, tu mettiti accanto a Mike e mi raccomando, sei sempre sulle punte. E dico, ma perché? Sì, perché così diventa lui più piccolo e noi ci parliamo passandogli sulla testa. Abbiamo cantato e ballato insieme, quello è uno dei pezzi più belli della storia della televisione. Mike, che non sa ballare bene, ma anche Enzo Tortora, perché Enzo Tortora, diciamo la verità, era il più serio di tutti, era l'intellettuale, era quello al quale io stesso mi rifacevo. Enzo Tortora è il più vivo tra le vive. Ma è il momento dell'addio e vedi con grosso ciao, un inchino e tante grazie a tutti voi. Enzo aveva una cultura nettamente superiore alla mia e anche magari a qualche altro collega. Quindi forse lui si sentiva molto lontano dalla nostra mentalità, perché lui pensava che io forse facevo delle cose molto fatue, che regalavo milioni, centinaia di milioni, mi prendeva in giro qualche volta, diceva: ma Mike saprà che cos'è quella domanda che ha fatto? Ecco. Tortora presenta una presentazione un po' diversa dalla mia, cioè io sono uno che va di brutto, che parla come parla la gente per la strada, perché lui stesso quando non sta molto attento anche lui li sbaglia i congiuntivi. Gli piaceva essere diverso dagli altri, gli piaceva moltissimo, anche quando scriveva le parole che usava erano tutte sue, insomma. E poi lui ci metteva di suo quelle, guarda, io conosco bene Tortora, quelle sue finte ingenuità. Mi ricordo una volta c'erano dei bambini di carabinieri con i cappelli piumati e lui si mise in testa a correre come se fosse un bersagliere. Questa è sapienza, eh? Cioè, lui non aveva nessun tipo di atteggiamento distante, no? Sembrava il più convinto dei. E non è vero, perché Enzo Tortora era un uomo che campava leggendo, no? Che faceva, come dire, si godeva di una certa cultura, però lì correva. Io mi ricordo ancora quello, adesso il nome non me lo ricordo, mi ricordo che c'aveva un riporto che era una cosa meravigliosa, quello che voleva togliere la nebbia dalla Valpadana e voleva spianare non so quale monte. Qual è il concetto, mi consente? Il principio è semplice, è quello, è lo stesso che cambiare l'aria in una stanza. Che cosa facciamo noi? Apriamo o due finestre o una porta e una finestra. E allora si crea una... In questo caso si crea un movimento circolatorio di aria e si cambia l'aria in una stanza. Io propongo di aprire una finestra in Valpadana, in quanto la porta ce l'abbiamo già, da Trieste a nelle Venezie via. C'è un solo punto dove aprire la finestra, qui, sul passo del Turchino. Che cosa intende per spianare il passo del Turchino? Abbassarlo sino al livello del mare, senza tutte quelle curve. Abbiamo ricevuto delle telefonate terrificanti. Tutti arrabbiatissimi, quelli che avevano le case sul Turchino. Ma ci abita della gente, credo. Sì, abita circa 4.000 persone che potrebbero benissimo farle spostare. Ho capito, così. Ma lei si rende conto quante migliaia di persone muoiono per via della nebbia? E quanti migliaia di miliardi di danni provoca la nebbia? Ma lei ci va al Turchino qualche volta? Tutti gli anni. È ben visto. Direi di tutto per un paio di minuti. Purtroppo, signore, Big Ben, ahimè, ha detto stop. Big Ben dice davvero stop. Il 17 giugno dell'83 all'alba Enzo Tortora viene arrestato in un albergo romano. Quello stesso giorno avrebbe dovuto firmare in Rai il contratto per la settima stagione di Portobello. È l'inizio di un incubo giudiziario che durerà 4 anni. Roma, 17 giugno 1983. Alle 4:15 di mattina Enzo Tortora viene arrestato all'Hotel Plaza di Roma. Alle 13 in diretta televisiva viene trasferito al carcere di Regina Coeli. Molte persone sono già state arrestate nelle ultime ore, soprattutto durante la notte. Il nome più noto tra gli arrestati è senz'altro quello di Enzo Tortora. I carabinieri hanno fatto mettere la macchina un po' più giù, perché Tortora il divo passasse in manette davanti a operatori di telecamere e a fotografi. La gogna. A spiccare l'arresto, la procura di Napoli. A Tortora viene contestato il reato di associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata al traffico d'armi e droga. A fare il nome di Tortora alcuni pentiti. Insieme a quello del presentatore sono stati spiccati 856 mandati di cattura. Gli arrestati sono 412. Tortora resta in carcere 7 mesi. Il 5 maggio 1984 annuncia la sua candidatura al Parlamento europeo nelle liste del Partito Radicale. Viene eletto con 500.000 voti. Il primo grado del processo dura 7 mesi. Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora. C'è in un'agenda un Portobello. C'è un numero, ma non il suo. Posso però precisare che quando eravamo chiusi in cella tra noi cutoriani e vedevamo alla televisione il Tortora, era normale tra di noi scherzare appellando al nostro compare. E allora, signori, se prima ci poteva essere equivoco, se nel carcere di Santa Maria Capua Vetere confondono Enzo Tortora con Enzo Berri, adesso l'equivoco non c'è più. Ma pubblico ministero, lei lette o non le carte processuali? Sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Erano le dichiarazioni di Enzo Tortora al processo di primo grado. Nessuna prova, nessun riscontro oggettivo, solo la parola dei presunti pentiti, nel frattempo diventati ben 11. Tortora viene condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione. 3 mesi dopo, Tortora si dimette dal Parlamento europeo, poi il 29 dicembre si consegna alle forze dell'ordine in Piazza Duomo a Milano. Al processo di appello del 15 gennaio 1986 viene assolto con formula piena, così come altri 114 imputati del maxi blitz anticamorra. L'assoluzione con formula piena di Enzo Tortora al processo d'appello di Napoli. La sentenza è stata letta stamane in un'aula gremita di pubblico. Dopo 1185 giorni, Tortora torna in televisione. È il 20 febbraio 1987 e i suoi amici e collaboratori hanno questo ricordo. Ma io non me lo ricordo come un fatto gioioso. Io vedevo ormai un uomo che aveva passato l'inferno, non riuscivo più a vederlo in un ambito di spettacolo, di rapporto lieve. Mi fu molto difficile quel ritorno di Enzo. In quella serata io mi ricordo una grande dignità, un grande coraggio, un uomo che tirava dentro, fuori tutto quello che aveva dentro, e mi emoziona ancora adesso a parlarne perché mi vengono un po' i brividi, perché insomma io guardavo gli occhi, erano occhi diversi da quelli che ricordavo io. Mi ricordo perfettamente l'attesa con la quale aspettavamo. Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me. E io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirmi. L'ho detto. E un'altra cosa aggiungo, io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta. Rieccoci a Mix 24, il 26 giugno dell'87 va in onda l'ultima puntata di Portobello. Colpito da un cancro, uno dei più grandi autori e presentatori della televisione italiana, Enzo Tortora, muore a Milano la mattina del 18 maggio dell'88. Silvia Tortora, giornalista, figlia di Enzo, che con Annalisa Brucchi ha realizzato per noi questa trasmissione. Allora Silvia, com'è stato ripercorrere questa vicenda? Bello, perché per la prima volta mi sono confrontata con la parte precedente della storia di mio padre, alla tragedia, e quindi con la parte più bella. Ecco, ma oggi rimane di più l'incubo di quella vicenda drammatica, come ha detto anche Maurizio, oppure l'orgoglio di Portobello adesso? No, l'orgoglio di Portobello e di una bella televisione. Tu ci hai detto che all'epoca di Portobello ti vergognavi un po' di tuo padre e di Portobello. Io mi vergognavo da morire. E come mai? Intanto perché i compagni di scuola mi chiamavano Portobello e poi perché lui aveva appunto un atteggiamento così convinto. Quando si mette con la fanfara dei bersaglieri, io credo di non essere uscita di casa per 3 giorni. Ma sì, poi c'era anche forse un'atmosfera politica in quel momento, no? Che ti faceva sentire un po' più... Beh sì, eravamo su due fronti molto molto diversi. Quindi eri presa in giro continuamente e tu ti sentivi... Beh, mi fastidiva molto avere un personaggio simile dentro casa, insomma, avrei preferito un padre intellettuale. Ed era, in fondo lo era invece, un intellettuale. Sì, molto. Popolare, con una grande vena popolare. Ecco, ti dava fastidio questa popolarità di tuo padre? Quindi. Mi dava fastidio l'estrema capacità di attirare poi l'attenzione della gente, insomma, non era molto facile andare a colazione con lui perché venivano, chiedevano gli autografi. Molto continuamente. Sì, poi era uno che non se ne perdeva una, quindi lui era assolutamente affascinato dai problemi della vecchietta, del portiere. Insomma. Cioè era un interesse umano, reale, autentico, che poi traspariva nella trasmissione. Assolutamente autentico. Ecco, ma tu questo trionfo come lo vivevi? Andavi sullo studio, seguivi oppure vergognandoti stavi lontana? Allora, lui mi telefonava tutti i venerdì sera e per me era una tassa, perché arrivava la telefonata a fine trasmissione, diceva come è andata, e io rispondevo sempre malissimo. E poi l'unica volta, credo, che sono andata a vederlo in studio, lui ha aperto i microfoni della regia e mi ha corretto un compito davanti a tutto dicendo: bestia, un uomo non si scrive con l'apostrofo. Insomma, tutti i venerdì sera uno schifo. Tutti i venerdì sera un senso di fastidio, perché io avevo 15 anni quando iniziava Portobello e come Fiorello avevo voglia di fare altre cose, insomma. Senti, e adesso che cosa pensi? Che cosa ti è rimasto di quello invece, la cosa più importante? Adesso penso che era una bellissima televisione quella, era una televisione educata che entrava in punta di piedi nelle case delle persone, non li costringeva a forti emozioni, non usava urla, parolacce, forzature, era una bella televisione. Povero padre che non ha avuto la soddisfazione di vederlo riconosciuto in vita da sua figlia. Beh, speriamo che lo veda dal cielo. Ah, speriamolo allora. E che cos'è la cosa più importante che ti ha lasciato tuo padre? Ma intanto forse una forma di rispetto e di educazione per gli altri, cioè ascoltare e cercare di giudicare il meno possibile. E questo è quello che ti ha insegnato, diciamo. Proprio. Questo è quello che mi è rimasto e quello che gli ho visto fare sia dal punto di vista professionale sia durante quell'orrenda vicenda. Ecco, come padre, che padre era tuo Enzo? Ma Enzo era un padre attento, telefonicamente molto presente, quindi ci sentivamo anche 5-6 volte al giorno, con delle variazioni di umore, molto spigoloso in alcune cose, molto chiuso, molto pudico, però attento. Ma c'era qualcosa che di lui non ti piaceva? È difficile dirlo adesso, forse. C'erano molte cose che non mi piacevano. Lui, ad esempio, aveva un grande amore per le battute, quindi per una battuta avrebbe dato il suo regno, e ne ha fatte troppe. Ma sì, qual è quella peggiore che ti ricordi? Ma insomma, su colleghi ha detto cose che non si possono ripetere, però insomma, loro le ricordano molto bene. Mi ricordo con Minà. Sì, quando facevamo blitz. Sì. Ecco, senti, ma tuo padre piaceva anche molto alle donne. Tu eri gelosa? Gelosissima. Ah sì? Assolutamente. E cosa facevi? Intervenivi? No, però... Cercavi di sviare l'attenzione? Soffrivo in silenzio. Ah, soffrivi in silenzio? Sì. Insomma, una moglie devota, una figlia devota. Sì, una figlia devota. Senti, ma non intervenivi, non gli dicevi niente su questi suoi amori, queste sue... No, perché poi si apre il fronte genovese, quindi siamo abbastanza incapaci di confrontarci sulle cose intime. Ah, genovesi in quanto voi genovesi. Noi genovesi. Ecco, senti, ti faccio un'ultima domanda, ma c'è un rimpianto che hai, qualcosa che avresti voluto dire a tuo padre, a parte dirgli che Portobello era una gran bella trasmissione e che non gli hai detto? Sì, che era un grande professionista. Un grande professionista, un esempio quindi? Sì. Era... Ecco, ma negli anni difficili tu ci hai raccontato di aver scoperto tuo padre. Scoperto perché? Cosa vuol dire? Scoperto perché è arrivato dopo il personaggio, cioè io ho scoperto l'uomo che stava dentro quel personaggio televisivo. E questo è l'uomo che racconti ai tuoi figli? E questo è l'uomo che io cerco di raccontare ai miei figli. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. Thank you.